Dialogo diciannovesimo. Raccontò Ibn Mas'ud. Un uomo chiese al profeta, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: «O apostolo di Allah, saremo puniti per i peccati che abbiamo commesso prima di diventare musulmani?» Rispose: «Chi praticherà l'Islam come Allah comanda non sarà punito per i peccati commessi prima di entrare nell'Islam, a meno che non sia recidivo. Infatti, i recidivi saranno puniti non solo per i peccati commessi dopo la loro entrata nell'Islam, ma anche per quelli commessi precedentemente».